La scrittrice Barbara Alberti ha scelto l'esilio. Era da tempo nota la sua decisione di ritirarsi dal mondo. Vive nel faro di Capo Finisterre, all'estremo occidente della Spagna. Da questo luogo, l'esule Barbara Alberti continuerà a tenere vivo il contatto con le donne che la interpellano per consigli in questione di cuore e qualche suo raro amico. Шарманка, шарлатанка, как сладко ты поёшь. La guardiana del faro. Шарманка, шарлатанка, куда меня зовёшь. Voci e pensieri per Barbara Alberti. Шагаю я. Questa è un'ascoltatrice che ci scrive firmandosi Lara. Odio la parola single che ci adula. Io sono una zitella di 44 anni. Vivo in una piccola città e non ho tante possibilità di incontro. Non mi sono sposata e vivo triste con una vecchia madre che è un'ottimista spensierata e mi dice che non so quanto sono giovane, che la vita comincia a 40 anni. Mi fa ridere. Così io avrei 4 anni? E questa oppressione? E questa mancanza di voglia di andare avanti. Ma non è vero che la vita comincia a 40 anni. La vita comincia sempre o finisce subito. Colui al quale piace la vita troverà il modo di farsela piacere sempre, ma chi vede solo difficoltà ne vedrà sempre di peggiori. L'unica condizione che consenta di stare decentemente al mondo è che a 11, a 13, a 32, a 70 tutto possa ricominciare. Io conosco dei vecchi orrendi e dei vecchi che ti consolano, non tanti, ma incoraggianti, vecchi che si sentono eterni e sanno che moriranno domani. Sono così perché lo sono sempre stati. Anche quando avevano 5 anni, la vita scorreva in loro così impetuosa che si aspettavano qualcosa. Se passi la vita in compagnia delle tue ossessioni, misurando il tempo che passa, con una piattezza da clessidra, c'è poca speranza, C'è un modo sicuro per dimenticare che il tempo va e perdonarglielo. Occuparlo bene. Ma per esempio, che ne so, a me ti dico le cose che piacciono a me, ma poi chissà a te cosa piace. Passando il tempo con libri, film, invece che con i brutti e sempre uguali pensieri. Proprio ieri, in un momento difficile, mi ha soccorso un grande libro di Jack London, Prima di Adamo. Guarda, se non è in giro perché la nostra cultura divora se stessa e in libreria trovi solo le novità, guarda su eBay, ebook, tutte queste cose, su internet trovi tutto. E ti consiglio questo libro, Prima di Adamo, di Jack London. Guarda, io l'ho preso in mano, dopo qualche pagina, mi era impossibile ricordarmi le mie miserie, perché mi sono ritrovata in questa foresta delle origini, dove l'autore ricorda di essere vissuto, perché parla degli uomini prima che diventassero uomini, quando ancora eravamo quasi scimmie. Conoscerai Orecchiuto, Faccia Pelosa, Labbro Lungo, questi antichi parenti nostri, di quando ancora ci dondolavamo sugli alberi e il linguaggio non ci complicava la vita, quando eravamo pelosi, coi piedi prensili, e ci facevano paura il leone e la fame, non ancora lo scorrere del tempo. Questo è un regalo della civiltà. Mica ti dico di diventare una scimmia o un intellettuale, ma di prendere in mano qualche CD o qualche DVD e di farti abitare da strane e magnifiche storie piuttosto che dai tuoi pensieri terrificanti e meschini. La vecchiaia è spaventosa, ma lo è tutta la vita dell'uomo. C'è un gioco che si può fare. Diciamo un trucco da giocolieri che a tratti riesce, ed è spaventarla noi, invece del contrario. Cara Barbara, grazie. Grazie perché quando posso ascolto la tua profonda ed intelligente trasmissione, cercando di contagiare chi mi è vicino per condividere con loro i tanti, troppi punti di interesse che mi coinvolgono ed i tuoi adorabili commenti. Ascoltando la tua risposta alla lettera di quella ragazza intimorita dal parto, mia moglie, finalmente attenta per 10 minuti alla trasmissione, ha pianto di gioia e di passione, ricordando le sue... È vero, la nascita è un rapporto troppo intimo da prevedere l'intruso, il padre. Le sue due natività. Io le chiamo così, perché come hai detto tu, giustamente, gravidanza è un termine sbagliato per legarlo ad un evento che, quando va tutto ok, cambia la vita delle persone. Quindi, perché definirlo grave? Con vivo compiacimento per quanto trasmetti, un caro saluto, Antonio. Post scriptum. Mi piace Pennacchi, ma la tua ultima recensione mi è sembrata troppo benevola. Beh, Antonio, non sai che piacere quando nelle vostre lettere balenano gli interni. Venire a sapere in quale gesto e situazione ti colga questa trasmissione, ovvero quale momento di intimità condividiamo. Quindi è domenica mattina a casa tua, si sente la voce di tua moglie. Uffa Antonio, e spegni sta radio. Che palle sta guardiana del faro. Ma che le ascolti a fare ste stupidaggini? E si crea quell'odietto domestico che conosco bene perché ascoltiamo tutti la radio, quando a te interessa una cosa e agli altri no, e ti ci parlano sopra. Poi d'un tratto, dolcissimo a sapersi, le orecchie di lei si drizzano come serpenti perché l'argomento la riguarda. E colei che ci detesta ci fa un regalo che nemmeno gli affezionati. Piange. Noi, Gloria Guerrera ed io, scusa l'immagine barocca, chiudiamo queste lacrime in uno scrigno. Ma non si chiude bene. Allora ci aiuta pure Alessandro Chiappini, che con la sua mole importante ci si siede sopra e ormai non ce le leva più nessuno. Quanto al fatto che il mio commento ai libri di Pennacchi fosse troppo benevolo, a parte che siete omonimi, ma Antonio no. È poco, anzi, rispetto all'esperienza che è stato per me imbattermi in Canale Mussolini e negli altri suoi libri. Io dopo Canale Mussolini, per mesi, non ho più scritto. Ma neanche mi passava per la mente. E non mica perché mi misurassi con lui, ma perché mi sentivo placata, colma, come se lo avesse scritto anche per me, come se lo avessi scritto io. Io ho un senso di irrealtà, di un incubo che non finirà mai. Quando apro la TV e vedo gli stessi ceffi che nel precedente governo hanno fatto i danni che paghiamo con le nostre vite e che si mettono delle leggiadre mascherine veneziane sui loro grugni e fanno lezione di morale e dicono con gravità: qui ci vuole il rinnovamento, adesso basta con la corruzione. Dicono che ci penseranno loro, come se non ci avessero pensato abbastanza. E i conduttori che li fanno parlare, li prendono sul serio. Nei talk show sfilano i vecchi e i nuovi ladri e ci fanno prediche sull'onestà. Però adesso c'è una novità. È nata una maschera nuova. Non nuova in assoluto, nuova in questo contesto. È nato il buffone della gang, Franco Fiorito, che trasforma in una farsa i suoi furti e diventa una mezza star. Attraverso queste sue performance sinistre, l'offesa e il danno fatti ai cittadini arrivano addirittura allo sberleffo, perché facendo ridere, Fiorito ride di noi. Dice: avete visto? Perfino uno come me vi può fregare. E sa che come personaggio ha un futuro, perché nel burlesque Calitalia, Er Batman, questo simpatico nomignolo lo fa sembrare quasi un giocattolo. E invece è uno dei tanti che sottraggono risorse, ovvero vita. Non perde occasione di fare spettacolo, nemmeno mentre gli prendono le impronte. Dopo l'arresto, fa la cronaca in diretta al telefonino, parla coi giornalisti, fa lo spiritoso e trasforma l'arresto in una barzelletta, continuando a riderci in faccia sgangheratamente. Però io non capisco. Lui è quello che è. Ma perché i funzionari che lo hanno arrestato glielo hanno permesso? Se arrestano me o uno di voi, se proviamo a fare una cosa del genere, io credo che ci verrebbe severamente proibita. Se cominciassimo a tirar fuori il telefonino, ma non dico coi giornalisti, a parlare con la zia dicendo: ah, sono qua, facendo la radiocronaca. Ma Fiorito invece viene permesso. Sono frammenti dell'anima di Berlusconi che percorrono l'Italia, questo pulviscolo che lui ha lasciato e che forse non se ne andrà più. Come il signor Piazza, che per 3 anni ha occupato il posto del disabile. E i vigili hanno tollerato, nessuno gli ha detto niente e si sono svegliati solo quando quello con un punteruolo ha tagliato le ruote del disabile. E poi inutile che ve lo dica, se volete saperne di più, la puntata di Melog di Gianluca Nicoletti è stata interamente dedicata a questo il giorno 4 ottobre. Ora passo a un altro argomento. Qui non ci sono i malversatori, più leggero diciamo. Ci sono gli intellettuali, molto impegnati a litigare fra loro. Ma non come litigavano i surrealisti coi dadaisti o i futuristi russi con gli immaginisti. No, in queste meno eroiche liti di oggi si ricorre alla carta bollata. E sto parlando della disputa fra lo scrittore Gianrico Carofiglio e l'editor Vincenzo Ostuni, di cui si è molto parlato nei giorni scorsi. Devo dire, a me è sembrata soprattutto una storia fra due antipatici. Ma vediamo i fatti. Lo scrittore Carofiglio si è offeso del giudizio che Vincenzo Ostuni, editor di Ponte alle Grazie, ha scritto su Facebook, definendo il suo romanzo Il silenzio dell'onda opera di uno scribacchino scritto coi piedi, senza un'idea, senza un'ombra di responsabilità dello stile. Attenzione a queste parole che torneranno: responsabilità dello stile. Davanti alla parola scribacchino, caro figlio ha perso la testa. Effettivamente è sgradevole, magari gli sarà venuto un dubbio su di sé, e non è bastato rassicurarlo il successo del pubblico e di critica, che pure gli arride, e ha fatto arrivare a Ostuni un mandato di comparizione. E qui comincia una di quelle risse all'italiana che ci piacciono tanto. È una grande passione nostra fare i guardoni delle botte altrui, e devo dire non solo di oggi, oggi si è acuita, però c'è sempre stata. Io mi ricordo da piccola nel mio paese umbro, se qualcuno gridava «Correte, correte, se menano!» e senza nemmeno sapere chi si stesse menando, tutti lasciavano chi la cazzuola, chi la bottega, chi l'arcolaio, perché da noi, se vediamo due che fanno l'amore, chiamiamo i carabinieri, ma davanti a due che fanno botte, li guardiamo contentissimi sperando che si massacrino. Insomma, questa futile tragedia ha riempito i giornali. Caro figlio è uno scrittore molto venduto e amato dai suoi lettori, però non è Byron ai suoi tempi, quando tutto l'impero britannico palpitava per un suo verso, per un suo amore, e ci si accapigliava per lui. Eppure la cosa ha suscitato molto interesse. E anch'io, che sono una gazza, non ho resistito a fare un salto nel pollaio e a starnazzare un po' a mia volta. Insomma, caro figlio agisce legalmente contro Ostuni. E allora molti scrittori indignati prendono le parti di Ostuni, scandalizzati dal gesto di caro figlio, perché come la metti è un'intimidazione. E anch'io lo penso, mi sembra un comportamento riprovevole, perché la querela è una forma di censura, anche se non gliel'ha ancora fatta, però sta sulla via, è una forma di censura, un'ammonizione, un ricatto per il futuro, è una cannonata preventiva, un tentativo di diventare intoccabile. Se mi toccate, sapete cosa vi aspetta. È un modo di fare, oltre che odioso, anche ridicolo. Ed è ridicolo specialmente quando il querelante ammanta il suo ego di nobili ragioni e dice «Io non ho agito per me», questa è un'intervista alla Repubblica, «ma perché è in ballo la qualità del dibattito civile». E per alzare la qualità del dibattito, lui corre dai gendarmi. Ma sarebbe stato così più amabile se avesse fatto lo sbruffone, se avesse detto, come fanno altri, «Io sono il massimo scrittore vivente, io sono un dio, datemi ragione o vi fulmino». Lì era un gioco futurista, invece no, qui siamo alle serie. Inoltre, la querela è un mezzo molto importante nelle mani di chi non ha nient'altro per rivalersi, per reagire a un torto. Ma caro figlio è un uomo importante, lui può scrivere sulle più grandi testate, è un uomo autorevole, ha tutte le porte aperte. Tra l'altro poi tecnicamente scribacchino non fa piacere a nessuno sentirselo dire, e non è un complimento, però neanche un insulto sanguinoso. È la versione sprezzante di scrittori di genere. E la gente va pazza per gli scrittori di genere. Io, caro figlio, non l'ho mai letto. E questo episodio, devo dire, non invita molto a farlo. Però lo dico senza timore di dispiacergli, visto che ci sono altri 100.000 che invece lo prediligono, cioè può fare a meno di me e di altri che non l'hanno mai letto. Degli amici miei, i suoi lettori, mi dicono che lo è uno scrittore di genere e di ottima qualità. Non tutti possono essere Joyce. Alcuni sono Simenon, ed è già molto. Io non capisco, perché caro figlio è un senatore, un magistrato. Ha cominciato a scrivere tardi ed è diventato subito autore di bestseller. Si è classificato fra i primi tre allo Strega. Gli è andato tutto così deliziosamente bene. Ha anche un nome così bello, Gianrico Caro Figlio. Sembra fatto apposta per stare sul frontespizio di un libro. E non è contento. Ma cosa vuole? Vuole l'unanimità. Io mi meraviglio, un uomo serio, un uomo di legge, ma basta un successo editoriale perché subito dentro di lui spunti un piccolo dittatore che non si può contraddire. Certo, quando vedi che la gente svuota le librerie, che vuole il tuo libro, si capisce che uno si monta un po' la testa. Però un po', giusto per gioco, non c'è occasione migliore per ridere un pochino di sé, che è una cosa che fa molto bene e che è fonte di grandi tenerezze. E poi vediamo l'offensore, l'altro, Vincenzo Ostuni, che fino a ieri conoscevano in pochi e d'un tratto, grazie a caro figlio, è diventato famoso come Belen. Ma come scrive Ostuni? Questo che dà questo giudizio così tagliente. Io chiedo perdono agli ascoltatori, ma è un elemento importante e dovrò infliggere loro uno stralcio dell'articolo di Vincenzo Stuni su Repubblica del 29 settembre. Io l'ho detto prima, non so come scriva caro figlio, ma anche se scrivesse coi piedi, come dice Stuni, rispetto a lui sarà comunque Giacomo Leopardi. Per senso del dovere, leggo uno stralcio, che è questo. Ma è un espediente classico del paralogismo sillogismo fallace, analizzato da Aristotele negli Elenchi Sofistici, in cui il termine comune alle due premesse è utilizzare in accezioni distinte, partire da un'asserzione talmente salda che dover negare le conclusioni per l'avversario potrebbe risultare imbarazzante. Passiamo oltre dunque alla seconda premessa. E qui parafraso, i critici che appoggiano Stuni difendono qualcosa che non è critica, ergo nessun diritto sarebbe gravemente violato, ai paralogismo, quello che difendono, credo di poter interpretare, è il diritto di critica, un diritto certo più santo e ampio, parte Zaghi ne converrà, dei nostri esercizi, non il diritto di critica letteraria, qualunque cosa sia. Quest'ultimo ne è semmai un sottocaso, e per questo è perfettamente vero. Io mi chiedo come uno che scriva così osi parlare di responsabilità dello stile, perché ha scritto un temino pedante, compiaciuto, così tortuoso, che bastano queste righe per capire che lui usa la lingua come un lacciuolo per strozzare lo spirito. Ma perché uno che scrive così deve fare l'editor? Spiega agli altri come si scrive e aggiusta i romanzi, ma quanti ne avrà azzoppati e quanti ne azzopperà ancora? Fermatelo! Sgrida, caro figlio, perché dice che scrive coi piedi, ma i piedi di chiunque saprebbero fare meglio delle mani di Ostuni. Responsabilità dello stile. Ma non legge quello che scrive. Se non ha paura dei vivi, che almeno abbia paura delle ombre. Perché se l'acchiappa il fantasma di un grande responsabile dello stile, che è Francesco De Sanctis, gli dà una bella ripassata, gliene dà un sacco, una sporta gliene dà. Io credo che Ostuni corra più rischi di Salman Rushdie. Perché un poeta irpino lo tiene d'occhio, gente tosta, morto da 129 anni e quindi ancora più temibile. E forse un consesso anche di altre ombre, anche in altre lingue, non so, Stevenson, Kipling, Dickinson, De Roberto, Nievo, Gadda, sta esaminando il suo caso. E il pollice è verso. Stavamo parlando di una disputa fra letterati moderni. Gianrico Carofiglio, scrittore famoso, e Vincenzo Stuni, editor della casa editrice Ponte le Grazie, che ha scritto su Facebook un giudizio molto sgradevole sul romanzo Il silenzio dell'onda di Carofiglio. Gianrico Carofiglio allora gli ha fatto avere un mandato di comparizione minacciando una querela per diffamazione. Io lo dico senza temere le conseguenze, perché so che questi due personaggi sono molto potenti e anche le case editrici che hanno dietro. E ancor più vendicativi. Ma io non li sto sfidando, né sto dando prova di coraggio. Anzi, lo faccio con la viltà ilare e infantile dell'uomo invisibile, che dà scappellotti pizzichi, tutti si girano. Chi è stato? Nessuno. Io non corro rischi. Per quel che conto presso i letterati italiani è come se fossi morta. E posso dire quello che mi pare con l'impunità dei trapassati. Sono invulnerabile, al di sopra di ogni vendetta. Non ho niente, non mi possono togliere niente. E quella parola che Ostuni ripete nel suo articolo, come un colpo di gong, i miei sostenitori. E dietro queste parole l'Ostuni vede ondeggiare una folla e sento il suo nome invocato. Ostuni, se caro figlio ci avesse fatto su una risata, Ostuni sarebbe rimasto solo con i suoi insultini. Adesso invece, grazie all'atto giudiziario, è diventato un leader, un fondatore di partito. Ha i sostenitori, il partito anticarofigliano. Perché sono insidiosi i media, ti si ritorcono contro. E caro figlio, per diventare intoccabile, ha reso intoccabile anche il suo nemico. Però vorrei far sentire un'altra voce, una voce più forte della mia, più informata e più bella. quella di Antonio Pennacchi, sempre sulla Repubblica del 29 settembre. Ho letto e ho visto che un nutrito gruppo di scrittori e critici ha deciso di intervenire in difesa di Vincenzo Ostuni dopo l'azione civile per diffamazione intentata ai suoi danni da Gianrico Carofiglio. Che era successo a monte? Era successo che durante la campagna elettorale dell'ultimo strega, a cui poi Il silenzio dell'onda di Carofiglio Rizzoli si sarebbe classificato terzo, Vincenzo Ostuni, editor di Ponte alle Grazie, lo aveva definito sulla sua pagina Facebook un libro letterariamente inesistente, scritto coi piedi da uno scribacchino mestierante senza un'idea, senza un'ombra di responsabilità dello stile. Quelli di Ponte alle Grazie, dice Pennacchi, sono soliti non andare troppo per il sottile. Per loro, ad esempio, ogni volta il premio strega è combinato. Per essere davvero pulito, un premio strega dovrebbe far vincere solo il libro loro. Quelli degli altri sono sempre schifezze. Dalle dichiarazioni di Pennacchi viene fuori un altro elemento interessante che, oltretutto, per togliere ancora di più nobiltà a questa storia, che anche è una guerra di poteri e di case editrici. Continua Pennacchi, io sto con Carofiglio, e non solo perché mi stanno antipatici, non tanto quelli di Ponte alle Grazie, ma tutti quelli che prima menano e dopo piangono. Giudizio critico e letteratura, infatti, sono una cosa, ma gli insulti personali un'altra. E scribacchino non è un giudizio sul libro, è un insulto bello e buono alla persona di Carofiglio. Ecco qui siamo in disaccordo con Pennacchi. E lui che dovrebbe fare? Se lo dovrebbe tenere, secondo loro? Dice, ma le storie letterarie sono piene di stroncature feroci. Vero, ma a quei tempi c'erano pure i duelli a restituire giustizia. Tu insultavi, stroncavi, e quello ti sfidava a duello. Oppure partiva da Milano, pigliava il treno come Balla e Marinetti magari, veniva fino a Firenze a gonfiarti di botte al caffè delle Giubbe Rosse. Papini e Prezzolini poi però gli corsero appresso e gliele ridiedero tutte quante alla stazione prima che ripartissero, ma questa è un'altra storia. Continuando questo discorso, dice che tra l'altro stiano attenti, che sarebbe anche favorito in questo Carofiglio in quanto è cintura nera di karate. Io comunque, pur essendo solidale con lui, mi unisco all'appello loro. No alla querela, Carofì, vai a menà. Ma a proposito di stile, io vorrei chiudere raccontando un episodio che riguarda Michele Mari. Un altro modo di risolvere una questione simile da parte di uno scrittore. Io cito questo episodio perché conto sul fatto che il Mari non ci ascolti e spero che non gli salti proprio stamattina di sintonizzarsi su Radio 24. Perché Michele Mari, così immanente e silente, così sdegnosamente e giocosamente elegante, io credo che sarebbe scontentissimo di essere accostato a ciò e a coloro. Da lettrice io conosco soltanto i suoi scritti e so ben poco dell'autore, però mi immagino che rispetto a questa lite debba sentirsi come nel suo racconto tratto da Tu sanguinosa infanzia, dove il bambino, passeggiando per i giardinetti, osserva i costumi dei suoi coetanei. And after all, we're only ordinary men. Lungo quei viali, sopra quei prati, su quella terra, lì, a sancirsi cresciuti, cioè rotti allo sprezzo di ogni commossa dulcedo, di ogni ingenuo rigore, certi prepossenti sono usi sputare. Davvero incredibile cosa, lo svolgersi aereo del militante scaracchio, che in controsole tu vedi come un'aspra cometa seguita da una scia di goccioline minori. E intanto ti chiedi come si possa. Sì, tu che solo nel lavandino e solo a perpendicolo direttamente nel buco dello scarico e solo in privato e solo per fondati motivi e anche allora con una certa vergogna, come si possa progettare e poi anche seguire una cosa simile, gratuita e pubblica, e persino farsene un vanto e addirittura a taluno anticipatamente annunziarla. In questo racconto poi il bambino torna a casa e scopriamo che vive coi mostri. Ma che mostri! Il sartore, l'orco, la mummia, la finta madre, colui che sussurra nel buio, il vampiro, la larva, la morte. Il bambino vive in un capriccio di Goya, in un quadro di Ensor, vive l'incubo della letteratura, abita il sogno. Ho letto questo brano per lo stesso motivo per cui ho letto le dichiarazioni di Antonio Pennacchi, per purificare l'aria, per far passare in questa angusta disputa ciò che manca totalmente, la letteratura, per ricordare che al di là delle buffonate, essa esiste ancora. Però, anche se so che a Michele Mari dispiacerebbe, io devo raccontare di come lui si comportò davanti all'oltraggio. Era uscito sul Corriere della Sera un articolo offensivo, ma davvero offensivo. Altro che scribacchino, firmato da Antonio Dorrico. Sottolineo che Mari, in quell'occasione, non reagì ad una stroncatura, perché lui non aveva pubblicato niente da 2 anni. Reagì a un attacco personalissimo che toccava la sua vita. Così si presentò al Corriere della Sera, andò da Dorrico, gli disse le sue ragioni e lo sfidò a battersi. Dorrico si rifiutò e allora Michele Mari lo colpì al viso. Avvenne nell'anno 2000. La musica di Pink Floyd che ci ha accompagnato è un omaggio alla scrittura di Michele Mari e in particolare al suo libro Rosso Floyd, pubblicato da Einaudi nel 2010. È in arrivo un messaggio nella bottiglia per Barbara Alberti. Cara amica, qui non si tratta d'amore. È che io ho paura di morire. Sto bene in salute, sono un pezzo d'uomo di 42 anni, ma a volte sono preso dall'ossessione della fine. Spio il mio corpo, credo di vedere dei brutti sintomi. Ho tanta paura che non vado mai a fare dei controlli medici. Tante volte mi trovassero una malattia incurabile. Ho anche paura che muoia la mia amatissima moglie, gli amici a cui voglio bene. Per fortuna poi la vita mi distrae, ma quando torna il pensiero della morte mi spengo e mi dispero. Mia moglie vuole portarmi per forza da uno psicanalista. Tu credi che io ne abbia bisogno? E come si fa a distrarsi da questa consapevolezza che siamo nati per morire? Luchino. Ma se sei malato tu, siamo malati tutti, perché tutti abbiamo paura della morte. Da quando esiste, l'uomo ha costruito dei di ogni forma per salvarsi da questo pensiero. Io non credo in un al di là, anche se nessuno può affermare con sicurezza che esista o non esista. Però vedi, anche nell'invenzione degli dèi resta la coscienza della fine. Nel poema Assiro, Gilgamesh, l'eroe che tutto vide, si dice: quando gli dèi crearono il mondo, a noi diedero la morte e la vita tennero nelle loro mani. Quanto lo psicanalista, caro Luchino, se gli psicanalisti potessero guarirci da questa paura, sarebbe una festa, sarebbero degli dèi, cioè potrebbero guarirti solo se ti regalassero la vita eterna. Quello che ci resta, la nostra ricompensa, è la nostalgia dell'eterno. Potere concepire l'infinità essendo noi finiti. Ci resta l'eternità dell'istante, nell'amore, nell'arte, quando la perfezione dilata tutto, dilata noi, dilata il tempo. E ci hai fatto caso che quando ti innamori non te ne frega niente della morte? La domanda che mi fai è: come si fa a distrarsi? Guarda, distrarsi non si può, non è un buon metodo, è una illusione, un paravento di carta. Mi sembra meglio entrare dentro in pieno in questo pensiero, come fa Leopardi, la cui lettura sempre mi rallegra. Oppure leggendo quel monumento alla morte che è Alla ricerca del tempo perduto di Marcel Proust. Perché sia lui che Leopardi rallegrano, perché sì, si muore, ma come sanno dirlo? In questo c'è una specie di allegria occulta. Ora, senza fare paragoni con Leopardi e con Proust, io sento gratitudine per Giorgio Conte, che nel suo ultimo CD, che si intitola Come quando fuori piove, nell'ultima canzone immagina la morte come un viaggio in mare, con un capitano dispettoso che non vuole dire la verità sulla rotta. Esorcismi, Luchino. Altro non ci resta che l'esorcismo, ed è tantissimo. Con Gloria Guerrera ti regaliamo questa canzone di Giorgio Conte, dove lui chiede invano quando arriverà. Grazie, Giorgio Conte. Come quando fuori piove, come quando fuori piove, come quando fuori piove. Meglio stare in casa, la finestra chiusa, con il gatto in grembo. È in In arrivo un messaggio nella bottiglia per Barbara Alberti. Cara Barbara, sto portando avanti da 3 anni 2 relazioni parallele. Una con mio marito, con cui sono sposata da 25 anni, e una con un uomo di 57 anni, single. Ma non c'è un modo diverso di chiamarlo che non sia scapolo? Ho così raggiunto un certo equilibrio, ma sono esausta perché ho il doppio dei problemi e delle tensioni di chi vive una relazione alla volta. Inoltre faccio un doppio lavoro e ho 2 figli, adolescenti. L'antica parola pace, shalom, vuol dire unità. E adesso a 51 anni vorrei tanto raggiungerla, ma non so come. I lavori sono 2 perché uno mi dà da vivere e l'altro mi dà soddisfazione. Le relazioni sono 2 perché mio marito è la persona migliore del mondo, ma è impotente. Neanche un bacio da diversi anni. Mentre il mio fidanzato, lui stesso non vuole essere un amante, è un solitario incapace di una convivenza che duri e con cui però sto proprio bene, che mi desidera e mi apprezza, solo però quando vuole lui. I figli sono 2 perché così sono arrivati e li adoro. Ma c'è un'inquietudine di fondo che non mi lascia dormire. Mi manca l'amore, che è condivisione completa, che è fiducia, che è lasciarsi andare, recuperare energie, non solo dare e dare e dare. Ho provato a lasciare sia mio marito che il mio fidanzato, ma nel primo caso ci sono ancora i ragazzini di mezzo e nel secondo resterei senza quel minimo di soffio vitale che mi tiene legata alla vita. Sono qui di notte e come Saffo, a me non ape e non miele e soffro e desidero. Cara donna, che sei così capace di vederti, shalom, è una parola. La tua vita è tutta una vita di fatti e di persone che si raddoppiano e sono fatti di 2 parti in lotta fra loro. Meno i 2 figli, hai aumentato le unità e ti sei creata solo dei pesi. Ti sei presa 2 uomini, ma tutti e 2 insieme non fanno un uomo intero. Non ti vogliono veramente, non ti accendono. Parlo di quell'accensione dell'amore che ti scopre chi sei, che fa di ogni tuo giorno un'impresa mistica. Quando ti si rivelano le cose, le strade, gli alberi, un gesto, diventano i simboli dell'altro, che altro più non è, perché lo includi in ogni gesto, lo includi in ogni visione, e il mondo diventa una creazione di questa attesa. Il tempo bello dell'amore, uno dei tempi belli dell'amore, è quando si è separati e si pensa l'uno all'altro, questa ricchezza della pausa, dell'aspettare di rivedersi, magari fra poco, e la durezza della vita immutata è tutta lì, ma tu le ridi in faccia, eppure la morte ti fa un baffo, purché non sia la morte dell'altro, questa grande paura che accompagna ogni amore, questa dinamo celestiale, perché si fa presto a dire l'istante, oh ma devi averlo l'istante per godertelo, bisogna che ci sia davvero un incontro, che ci sia una trasfigurazione. No, scusa, mi sono lasciata un po' trascinare, ma insomma, ciò che lamenti è che di questo amore non c'è un barlume fra te e sti 2 noiosi, tuo marito che fa il fantasma e l'amante che fa il prezioso. Con questi 2 uomini tu hai sommato 2 imperfezioni e intanto la tua vita scorre via come quella di un altro, con questa sola luce che sono i figli, ma anche loro ostaggio di un compromesso. La propria vita, che nostalgia di tutti noi umani che siamo legati agli affetti. L'artista, il rivoluzionario, dovrebbe essere solo. Ma forse anche una casalinga di 51 anni, che lavora pure fuori oltre che in casa, che ha un appetito d'amore pantagruelico, l'appetito di chi saprebbe amare e lo stomaco vuoto. Cara amica. Questa è la lettera di un marito separato. Da poco separato, che canta la gioia di averlo fatto. Ecco la lettera. Ne sono state dette di sciocchezze alla mia causa di separazione e io non ho potuto dire la verità per non dare troppo dolore a mia moglie, ma qui voglio dirlo, sperando che altre mogli leggano e capiscano che contro il sesso c'è poco da fare. Il motivo vero per cui io, ottimo padre e marito affezionato, ho perso la testa per una ragazza e ci sono andata a stare dopo aver lasciato la mia famiglia, è che lei per me è sessualmente eccitante. Mentre con mia moglie un desiderio così non c'è mai stato, nemmeno quando ci siamo messi insieme, che avevamo 17 anni e i sensi ci bollivano. Con questa ragazza sono diventato uomo, scritto grosso, Non è colpa di mia moglie. che anzi forse tua moglie, libera da questo poco felice connubio erotico, incontrerà da qualche parte un altro che sia l'equivalente della tua ragazza e che la renderanno un demonio del sesso, uno che la capisca a letto come tu capisci l'altra. Hai ragione in tutto. Ad aver seguito il tuo desiderio, ad essere finalmente sincero, non vedevi l'ora. Dalla tua lettera si capisce che sei stato zitto durante la causa di separazione, ma lo grideresti dalla finestra, col megafono, questa tua rara felicità sessuale. Però sta attento, che le cose gridate si svuotano, perdono di realtà e di potere. Hai ragione anche a dire così crudamente, così semplicemente, la verità del tuo e di mille altri rapporti, dove miliardi di chiacchiere vane e di finte liti nascondono solo la spaventevole noia di un letto condiviso senza ragione. A Milano, a Palazzo Reale, è in corso dal 20 settembre una grande mostra delle opere di Pablo Picasso ed ecco l'offerta che fanno agli ascoltatori di altre trasmissioni e anche della Guardiana del Faro. Allora, per 5 ascoltatori della Guardiana del Faro sarà possibile partecipare con un accompagnatore a una fantasmagorica visita speciale alla mostra di Picasso a Palazzo Reale a Milano. L'evento avverrà a porte chiuse, che brivido, e solo per 200 eletti, dalle 21 di mercoledì 24 ottobre. Allora, gli aspiranti picassiani dovranno inviare un proprio fotoritratto alla casella mail della Guardiana, laguardiana@radio24.it. I biglietti saranno assegnati in base all'originalità dello scatto. L'immagine potrà essere scattata anche con un semplice telefonino, ma la condizione indispensabile è che abbia per titolo una delle opere di Picasso. L'elenco completo si trova sul sito di Radio 24 e per esempio dovranno ricordare l'Arlecchino pensoso, la Donna in blu o i due saltimbanchi e via dicendo. Alla serata per accompagnarvi alla mostra ci saremo Gianluca Nicoletti ed io. Qui Capitaneria di Porto. Interrompiamo Barbara Alberti che parla dal faro di Finisterre. L'energia a disposizione è esaurita. Riattiveremo il collegamento tra una settimana. La Guardiana del Faro è un programma di Barbara Alberti, ideato da Gianluca Nicoletti, realizzazione tecnica di Alessandro Chiappini, a cura di Gloria Guerrera. Fusa.